la birra e i segni, però poi. Chi è qua? Chi è? Chi è che urla? Chi è che urla? Anto, vagardo! Marino, sì. Marino. Attento, Marino. Mari, avvisese. Oh yeah! Anto, Fagardo! Signora Longari! E che ti vuoi tendere il numero, Emanuele? Oh, è da sola, mo fa i denti. Sta ascoltando, è da poco fa che sta parlando. Ciao, Cla. Ciao, Emanuele. E stamattina c'erano dei bambini, lo stesso. Ancora non ho capito, queste sono frequenze adibite ai radioamatori e ai CB. Non a giocare a dare mano ai bambini, fino a quando non ci giriamo le balle, veramente. Perché è una vergogna, cazzo. Ma dimmi tu se ci devono mettere a giocare i bambini a nascondino qua. A non poterli usare soltanto tu, vero? Come? Non ho capito, ripeti. Manco tu puoi parlare perché non hai licenza qua. Sappilo. Quindi adeguati. Se no ti leggi il decreto ministeriale del Ministero delle Telecomunicazioni e ti rendi conto che non stiamo dicendo balle. Queste sono frequenze che hanno dato alla banda cittadina, ai CB e ai radioamatori. Quindi evitate di entrare a romperci le scatole, ok? Uia, uia. E a Tonino si intitola Emanuele? Ma se sono da ieri che non lo sento, tu sei intitolato? No, io lo sento la mattina quando sto andando al lavoro, ma al telefono tutte le mattine. Poi in radio già un po' di giorni che non lo sento. Io non ho sentito due giorni al telefono neanche. Né in radio né al telefono ho sentito. Vabbè. Ieri mi ha detto che stava andando al Alghero, appunto al lavoro, l'altro giorno era Ostieri. Già mi tiene informato, però non. In radio mi sa che l'è passata la voglia, non lo so. E magari anche per i problemi che c'ha con i dolori qui e là, non lo so se l'è passato, poi con quelle pastiglie là non lo so se li ha calmato, però erano diverse a quelle che avevo preso io. A me, ti ripeto, mi hanno fatto bene, adesso le sto sempre prendendo. Un po' l'infiammatura penso che l'abbia levata, perché adesso inizio già a camminare. Prima a casa ero tutto una tuba di duscio. L'infiammatura è il problema. Ma chi? Ah, usando c'è la fila. Ehi, ha detto l'infiammatura è il problema. L'infiammatura. Ui. Vabbè. Cosa vuoi ti dica, Manuel? Comunque lui non sta prendendo quelle che stai prendendo tu. Se prende quelle, vedrai che le prende. Perché passa a me, non capisco. Se lui prende il generico, poi in bustine pure, gli ho detto prendi e il trai in pastiglie e vedi già ti passa. No, se le ha fatte, allora la prima cosa si è fatta dare quelle in bustine e non era neghissi che biliato tu. Poi si è fatto e non li va bene nulla. Poi si è fatto dare l'altre in pastiglie e sono sempre diversi. Però non li fanno niente neanche quelle, ha detto. Io ho preso quelle uguali alle tue, quelle originali, eppure mi stanno facendo. Sonnolenza ti fanno venire, ecco, quello sì. Sonnolenza sì. Però, ripeto, mi stanno facendo bene. Ma io infatti ho detto fastidio, non devi guidare. Quindi lui la vuole prendere prima di andare al lavoro, non va bene, la deve prendere a pranzo, ok, basta. Se la prende alle 2 quando esce, la deve prendere poi dopo 12 ore, alle 2 del mattino, se vuole fare la cura, se no non lo so, però non va bene prenderla così come sta dicendo lui. Non va bene no, perché se deve lavorare, deve uscire in macchina, non va bene no. Cazzo, io la mattina non ci credi, io la prendo alle 11 di sera, l'ultima. L'indomani avanzano me ne beso tutto rincoglionito, oh, oh cla, ma anche a te te lo faceva. Certo che sì, certo che sì. Sono molto forti, però fanno molto bene, perché a me mi ha dato l'ortopedico proprio per le ossa, capito? E in più io addirittura stavo prendendo anche il Betotal, che perché io mangio pochissima carne, capito? E quindi stavo prendendo il Betotal assieme a quella. E ti dico che ho fatto una cura di una decina di giorni e sono tornato in grande forma. Già hai visto, Manuel, però io ho dimagrito 12 kg, capito? Anche quello è molto importante. Sia tu che lui siete troppo grossi, bisogna mollare un pochino. Cazzo, è indiano, in piscina devo andare. In piscina sì, posso andare, e se no indiano, in bicicletta non posso manco neanche più usarla per quel problema lì. In bicicletta è peggio ancora. Cosa faccio? Più che in piscina non posso fare. Non so, qualcosa devi fare, cerca di muoverti. La mattina presto, una passeggiata senza correre a piedi tutte le mattine. Deve scendere con la pancia, Manuel. Deve scendere, perché comprime proprio sulla spina dorsale. Quel peso lì sulle gambe è una cosa micidiale. Guarda, io ti giuro, sono rinato. Non ho, sono 12 kg e non è che ero più di 90. Adesso peso 78-79 e va benissimo. È il peso forma, ideale. Perché prima non ce la facevo manco a muovermi, avevo fatica, facevo fatica in tutto, capito? KK, comunque, io gliel'ho detto, poi quando ci vediamo glielo ripeto ancora, non smetterò di dirglielo, perché non è vecchio, è grande di età ma non è vecchio, quindi, perché poi tutti quei problemi te li porti quando sei ancora più grande ed è un casino, non ve la vai più a rimediare? Già lo so. Già lo so, adesso vediamo un po'. Cazzo, minimo devo fare a 70. Cazzo, 25 kg devo abbassare, 20 kg devo garare. 20 kg così voi devi essere aiutato. Fino a quando sono una decina io ho mollato tutte le bibite, la birra, il vino, la roba gasata, pochissimo pane, carboidrati non tutti i giorni, devi fare un'alimentazione molto molto più sana, però una decina di chili va bene, ma 20 kg sono tanti, 20 kg hai bisogno di un dietologo, Manuel, hai bisogno di essere aiutato, altrimenti non ce la fai da solo, perché puoi crearti ancora più problemi. Cosa devo fare, cazzo? A pensare pesavo 48 kg, ok, 48 kg pesavo. Io ti ho visto l'anno che sei sceso dal continente, che mi pare ero lì vicino a casa di Luca, o forse ero con Luca sotto, adesso mi ricordo, e mi ha detto, mi, quello lì è Emanuele Ginco, ed eri molto, molto magro. Ehi, cazzagata ne vai, Casturia. Allora, ho iniziato, quando sono partito da qua, ero magro, cazzo avevo, cosa ti posso dire, 22-23 anni ci avevo, sono partito, ho iniziato lì a lavorare tutto quanto, mi sono sposato lì, e cosa ti dico, in giro di 10-15 anni, non so quanto sono diventato. Lo so, no, io ti ripeto, quando sono sceso a portare giù il 4,50, mi ricordo, una cosa del genere, eri molto, molto magro. Ehi, cosa stai dicendo? Cazzo, quando mi guardo nelle fotografie come ero prima, cazzo, si vedeva proprio le ossa, ero l'agnosi. Vedi, è così, io stavo benissimo, nel periodo che lavoravo stavo benissimo. Nel giro di 2 anni ho iniziato a ingrassare, perché? Perché pochissimo movimento, sempre lampando bari bindiori, come ti si dici, nel bene, però sai, vai a trovare l'amico e bevi una cosettina, bevi quell'altro, e un aperitivo, capito? Mangi fesserie, patatine, noccioline, queste cose. E quindi mi stavo mettendo in una posizione molto molto pesante. alla fine ho detto boh, basta, io esco la mattina dalle 8 alle 9 meno un quarto, vado al Tris tutte le sante mattine, do un'occhiatina al giornale, prendo un caffè con degli amici che ho conosciuto lì, dei conoscenti, facciamo due chiacchiere, tra gente che lavora, come vanno via loro alle 8:30, io me ne rientro a casa, boh, porto il cane e i giochi sono fatti a casa, io sono tutto il santo giorno a casa, di mattina non esco e di sera non esco. Solo così ti puoi salvare, perché se stai in giro, caro mio, è un casino. Lo so. Io ho iniziato a ingrassare quando ho iniziato a entrare nella vigilanza, pure lo stress e balle varie, cazzo, ero sempre in servizio, come ti uscivo dal servizio mi guccavo, mi svegliavo, mi coricavo alle 6:30, arrivavo, smontavo alle 6:30, mi coricavo, mi svegliavo alle 5:30 di pomeriggio, torno al servizio, finito all'indomani avanzano, quello lì era il mio hobby, ero più in servizio che con la famiglia. Così è, caro Manuele, è così. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare in canale 7. Avanti, c'è qualcuno? C'è nessuno. C'era quel signore che stava parlando, che non ho capito chi era, se uno dei nostri o se qualcuno extra. Allora c'è che c'è freddo? Ho abbassato gli avvolgibili, c'è freddo, No, io ho tutto aperto qua, sinceramente. Ho tutto aperto e sono a pettinuro. Si sta bene. Perché freddo c'era ieri sera, cazzo arrivi a carrietta ghiacciata, infatti ho chiuso la finestra ieri notte che non si buddi a cagruba con la bicca, perché io di solito dormo sempre con la finestra aperta la notte, ma di notte verrà freddo davvero. Io stamattina mia figlia voleva andare in moto a lavoro, uscita alle 6:30, invece ti accompagno io e poi mi prendo la macchina perché mi serviva a fare spesa. Io pitta, no, non c'è altro, è morto, cazzo, era un freddo, erano 11 gradi, 12 gradi, alle 6:30 di Mazzana. Poi quando sono rientrato io, verso le 8:30 c'erano 16-17 gradi già. Poi è rimasta intorno ai 24-25, però c'è questo maestrale che pizzica le orecchie. Vabbè, adesso è così, e speriamo che continui così tutto settembre, perché se inizia di nuovo quel caldo brutto, mamma mia che schifo, Stamattina faceva caldo, non vera freddo, camari vera fino alle 3 stava facendo caldo, perché sono andato a fare la spesa, a prendere un po' di cosa, e se vera gacca viru, Sì, ma se stai al sole, se stai all'ombra c'è quel vento di maestrale che ti punzecchia le orecchie, anche se va bene lo stesso, per carità, non è niente di che, va bene. Va bene. Comunque, no, non c'è nessuno, c'ho il bar è acceso, l'ho acceso, solo che devo, adesso domani Massimiliano mi dà un microfono, vediamo se va bene, perché dei miei con tutti i microfoni da tavolo che ho non ne va bene neanche uno. Ascolta, ma questo duplex a trovarlo usato non riesci a procurarmelo? E dove? E da chi? Chi te lo dà? Io ne avevo uno in più della Kenwood, lavorato a Gianfranco, capito? Anche perché è una persona che tutte le volte quando ha roba che in più me la regala a me, e quindi, ma tantissimo tempo fa, se no te l'avrei dato, e a chi vado a chiederlo? Non ho idea se qualcuno c'ha qualche duplesse. Vabbè, dai. Quello lì va bene anche in HF, no, vanno bene anche per gli HF, per fare doppio ascolto. Devi prendere il triplex, triplex, cioè duplex e triplex, la tre cavi d'uscita, che fa HF, VHF e UHF. Sì, vabbè, per le... allora, a me mi interessa per le... duplex, per due radio, per fare il doppio ascolto. Poi se devi collegare anche le... l'altra radio, quella l'ho collegata al commutatore, non mi interessa. Non lo puoi fare, te l'ho detto. Esiste il duplexer e il triplexer, ok? Se tu usi il duplex serve solo per fare le V e le U e le V e basta. Non le puoi attaccare antenne HF o della 27, non ricevi, anzi rischi di fare danno. Ah, quello sì, se a due sì, devo attaccare solo quelle là e basta, che fa V e U. E poi, no, volevo solo sapere se andava bene anche... per gli HF, no? Collegando solo due radio con questo duplex. No, no, è torra. Il duplex a due vie fa solo le V e le U, ok? Poi c'è il triplex che fa anche le HF. Se a te ti serve il duplex per le V e per le U, devi chiederlo per le V e per le U. Se ti serve per le HF devi chiederlo per le HF, non puoi attaccarci niente lì, nessun'altra radio, solo un V e U. Ah, ho capito, boh, volevo solo sapere quello lì, se si poteva fare anche con gli HF. Un attimo il telefono, Ocla. Ehi, no, perché hanno diversa impedenza, va bene, rispondi. Ma mi sto girando le balle, so da sciamani già meglio con numeri strani e sciallani. Anche a me oggi una chiamata con 030, ma io non rispondo, no, non me ne frega niente, 06, 011, 030, 08, 05, 08, non me ne affutti nulla, sono tutti call center. Io mi sono abituato, dalle 2 in poi metto il telefono silenzioso, non lo spengo e poi vado a avere le rotture di balle. E c'era una chiamata, c'era qualche messaggio su WhatsApp, ho risposto. E poi c'era questa chiamata 030 che sicuramente ha squillato, ma siccome era silenzioso io non l'ho sentito. Capito? Sono tutti call center, a futtidini. Che cazzo sono da chiamare girando nei sciatoli? Boh. Prima col 21 finale, avevo un altro numero. E boh, chi è? Quanto è amplificato Giulio? Sul 10, è un bel amplificato infatti. Un bel amplificato. Mi allascio, cazzo, in macchina. Ehi. Però esce bene, per essere un portatile esce bene. Ma c'ha l'antenna sulla cappotta o col gommino sta uscendo? No, ha l'antenna sulla cappotta, base magnetica. Che cazzo mi arriva 9 qua, eh? Ma dov'è adesso? Non so, è qua 9:10. Aspetta, mi assento un attimo, Ocla. Via. Ehi. Claudio. Aiuto, bucato, c'è qualcuno? Torino, sì. Torino.